Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buona serata e bentrovati a Radio Doc. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulle dighe, opere di straordinaria ingegneria. Le dighe sono fra le più imponenti costruzioni del mondo. Milioni di tonnellate di cemento imbrigliano la forza di un fiume. Miliardi di kilowattora prodotti dai generatori alimentano le città. L'acqua potabile scorre per centinaia di chilometri. Questi sono solo alcuni degli incredibili numeri che testimoniano la maestosità di tali strutture. Come spiega il professor Jackson, docente di storia del Lafayette College, l'acqua è la principale fonte di vita, ma anche di morte. La storia dell'uomo è un continuo succedersi di siccità e inondazioni. Per questa ragione, già i nostri antenati cercarono di conservarla e, allo stesso tempo, di difendersi dalla sua forza distruttiva. Se una nazione vuole svilupparsi, non può lasciare che un fiume scorra verso il mare senza sfruttarlo in qualche modo. Le dighe sono il mezzo per massimizzare lo sfruttamento. Se ne contano circa 900.000 in tutto il mondo, la maggior parte di piccole o medie dimensioni. 40.000 di esse superano i 15 metri. Un gruppo di circa 300 giganti raggiunge i 150 metri d'altezza. Tutte, comunque, sono infrastrutture vitali per la civiltà. Alice Southwater, autrice del libro Water Natural History. Negli anni 30 ci siamo resi conto di poter gestire interi bacini fluviali non con una sola, ma con decine di dighe. Così è iniziato lo sviluppo di bacini fluviali su ampia scala. Sono le dimensioni a rendere uniche le dighe. Negli anni 30, le dighe statunitensi sono le costruzioni più imponenti al mondo. Sono gigantesche opere di ingegneria. David Jackson, docente di storia al Lafayette College. Erano considerate monumenti, simboli del progresso. Non si è mai impiegato tanto materiale dai tempi delle piramidi. Ed è una cosa da celebrare. La diga Grand Coulee è la più grande struttura in cemento degli Stati Uniti. Altri giganti sono la diga di Hoover e quella di Oroville, ma non sono recenti, perché a causa dell'impatto ambientale e dell'assenza di nuovi siti sulle vie d'acqua, non si costruiranno più dighe di grande taglia negli Stati Uniti. In sostanza, abbiamo costruito tutte le dighe necessarie o realizzabili. Le dighe non creano l'acqua. Occorre che l'acqua esista perché siano fattibili. In America non possono più essere costruite. Mentre gli Stati Uniti realizzano enormi dighe, il resto del mondo prende nota e inizia a imitarli con crescente regolarità. La diga di Aswan, in Egitto, quella di Itaipu, fra Brasile e Paraguay, e per finire, la più ambiziosa diga idroelettrica del mondo, la diga delle Tre Gole, che supera ogni altra per dimensioni e produzione energetica. Come ogni centrale idroelettrica, la diga delle Tre Gole sfrutta la potenza dell'acqua che scende da un bacino sopraelevato alle turbine per produrre elettricità. Questo è normale, ciò che è eccezionale è la quantità di energia elettrica prodotta. Richard Ferris, cofondatore della Primavera System. I generatori idroelettrici collegati a questa diga producono 18 milioni di kilowatt di energia, una quantità impressionante, pari a 18 centrali nucleari. Tanta elettricità basta a illuminare Shanghai, la città più popolata della Cina, con quasi 10 milioni di abitanti. La costruzione della diga delle Tre Gole è iniziata nel 1994 con lo scavo di un canale per deviare il fiume Yangtze. Dighe di terra hanno incanalato l'acqua intorno all'area dei lavori. Il fiume Yangtze è il terzo del mondo per larghezza. Il suo corso è stato deviato per oltre 10 anni durante la costruzione della diga. Contenere lo straripante Yangtze è da lungo tempo una priorità per i cinesi. Negli ultimi 2 millenni il fiume ha provocato in media una grave inondazione ogni 10 anni. Ma nel 1918 è stata l'idroelettricità e non il controllo delle acque a spingere il leader rivoluzionario Su Yat-sen ad avviare un progetto per la diga delle Tre Gole. L'instabilità del paese ha rallentato il programma fino alle inondazioni degli anni 30 e 50 che hanno ucciso centinaia di migliaia di persone e spinto le autorità cinesi a pianificare in fretta una diga dall'enorme bacino, in grado di ridurre gli straripamenti e produrre energia elettrica. Date le proporzioni del progetto, la diga rimane sul tavolo da disegno fino al 1992, quando viene approvata dal Congresso del Popolo. I piani prevedono una diga a gravità alta 185 metri e lunga 2,3 chilometri, con due centrali elettriche a fianco di uno sfioratoio attraversato da 110.000 metri cubi di acqua al secondo. La diga delle Tre Gole contiene circa 27 milioni di metri cubi di cemento, quanto basta per stendere più di 10 autostrade, larghe 5 metri, attraverso gli Stati Uniti. Nel 1997 gli operai hanno iniziato la colata di calcestruzzo nell'area tenuta asciutta dal canale ausiliario. Ancora Richard Ferris. Nella costruzione di una diga, per prima cosa si fanno le cosiddette alzate di 2, 3 o 4 metri, con forme laterali per costringere il cemento in un'area precisa. Poi si passa a versare il calcestruzzo in quell'area. E dopo aver versato calcestruzzo per 10 anni, gli operai hanno ultimato il corpo principale della diga nel 2006. Si stima che 250.000 persone abbiano lavorato a questo progetto da 22 miliardi di dollari e mezzo, la costruzione più costosa e forse più vasta della storia moderna. Spesso nei paesi in via di sviluppo i grandi progetti sono realizzati da imprese americane o europee, ma i cinesi hanno scelto di fare quasi tutto da soli, rivolgendosi ad aziende occidentali solo in aree specializzate. Ultimato il corpo della diga, il fiume è stato restituito al suo corso e confinato nel bacino di 600 chilometri dietro la diga, inondando 13 città, 140 paesi e quasi 1.400 villaggi. L'ultimo e più drammatico capitolo nello sfollamento di circa 1.400.000 persone. Alcuni esperti prevedono che le spese di ricollocazione saranno pari al costo della diga. E ad alimentare la controversia bisogna aggiungere che il bacino sommergerà innumerevoli siti storici e archeologici, nonché alcune delle campagne più fertili della nazione. Ma una volta montate e messe in funzione, le 26 turbine da 4 tonnellate forniranno il 3% del fabbisogno energetico della Cina. I generatori sono ancora in fase di installazione e il pieno regime è previsto per il 2009, con un anno di anticipo sulla tabella di marcia. Le dighe sono giganti del XX e ormai del XXI secolo, ma la loro comparsa risale a migliaia di anni fa. 5.000 anni fa, i Mesopotami hanno elaborato questa nuova tecnologia, la diga, per trasformare il deserto in quella che oggi chiamiamo la mezzaluna fertile. I Mesopotami usano dighe a terrapieno, strutture di terra e pietra che bloccano l'acqua con la loro mole e la deviano nei canali di irrigazione attraverso i campi. Con il diffondersi della tecnologia delle dighe in tutta la regione, iniziano a crescere anche le dimensioni. I popoli cercano di conservare l'acqua nei bacini e non solo di deviarla. David Jackson, docente di storia al Lafayette College. Le dighe di deviazione sono le più antiche, ma non conservano molta acqua. Si dipende sempre dal corso naturale del fiume. Con l'aumentare dell'altezza, le dighe possono accumulare acqua, catturare le piene primaverili e distribuirle nel corso dell'anno. Ma arginare un bacino grazie al peso di rocce e terra richiede un'enorme quantità di materiale. I romani escogitano un modo per fare meglio con meno. Se prendi un muro di cemento e invece di stenderlo dritto attraverso una gola, lo pieghi ad arco, puoi sfruttare la forza dell'arco per trattenere l'acqua. L'arco, tuttavia, è forte quanto lo sono le sue fondazioni. Per questo è adatto ad aree ristrette con ancoraggi di solida roccia. L'innovazione successiva, la diga a contrafforti, è più versatile. Scarica la pressione su una serie di contrafforti, non richiede massicce quantità di materiale e si può estendere su aree più vaste. Nonostante queste innovazioni, la diga più diffusa rimane quella a terrapieno. È la diga preferita nelle zone ampie con grandi quantità di terra a disposizione. La diga più alta degli Stati Uniti è una diga a terrapieno. La diga di Oroville, sul fiume Feather, nel Nord California, alta 235 metri, è stata costruita negli anni 60 con argilla e ciottoli presi da una miniera d'oro abbandonata. Nel 1963 gli operai hanno deviato l'acqua con due gallerie e hanno scoperto il letto di roccia del fiume. Poi è cominciato il riempimento di terra. La diga di Oroville è una diga a gravità che trattiene l'acqua grazie alla sua massa. Il nucleo è composto di argilla impermeabile, circondata da uno strato di materiale più grezzo, composto di roccia, sabbia e ghiaia. La struttura è semplicemente troppo pesante perché il bacino d'acqua possa spostarla. Durante la costruzione, gli escavatori a ruota estraevano 2600 metri cubi di terra all'ora. Gli operai spedivano il materiale su nastri trasportatori fino al treno, dove caricavano 40 vagoni ogni 15 minuti. Tre locomotive trasportavano in continuazione i 60 milioni di metri cubi di terra fino al sito di costruzione, dove gli operai li dividevano, li rovesciavano nella diga e li compattavano. Terminata in 7 anni, la diga di Oroville fornisce elettricità, acqua potabile e irrigazione per la California centro-meridionale. Inoltre, il suo bacino e lo sfioratore prevengono le inondazioni. Quando si aprono le 8 paratie alte 9 metri, vengono rilasciati nel fiume 7.000 metri cubi d'acqua al secondo. Oroville è la 19ª diga più grande del mondo e supera la maggior parte delle dighe statunitensi. Oggi la tendenza è quella di dotare di generatori molti bacini ridotti a dighe da irrigazione, in modo da ottenere energia idroelettrica dalle dighe minori. Assistiamo a una prova di forza presso la diga di Rock Island sul fiume Columbia, nel cuore dello stato di Washington. Non si tratta di provare la resistenza della diga. Questa struttura sopporta la pressione dell'acqua da oltre 70 anni. Oggi inizia un ammodernamento nel cuore della centrale 1 che durerà 10 anni e si parte con un sollevamento pesi. Gli operai devono tirare fuori dal generatore il rotore di rame e acciaio del peso di 123 tonnellate. Con l'invecchiare dell'equipaggiamento e il logorio dei cuscinetti, il rotore inizia a oscillare e rischia di schiantarsi contro lo statore, distruggendo il macchinario. Dunque deve essere estratto e riparato. Ammodernare Rock Island avrà un costo di 180 milioni di dollari e una durata di 10 anni. Il progetto garantirà alla centrale altri 50 anni di vita. Dopo l'aggiornamento, i generatori della diga produrranno il 10% di elettricità in più con la stessa quantità d'acqua. L'idea di usare le dighe per generare energia nasce alla fine del XIX secolo con la possibilità di creare linee elettriche a lunga distanza. Aziende private hanno iniziato a costruire dighe idroelettriche nelle zone più remote. Per tutto il secolo, gli stati e le industrie, affamati di acqua ed energia, hanno eretto dighe su quasi ogni grande fiume degli Stati Uniti. Negli anni 30, il presidente Roosevelt, per stimolare la ripresa economica, autorizza la costruzione di alcune fra le dighe più grandi del paese, incluse la Shasta, la Bonneville e la Grand Coulee. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alle dighe. Si tratta di opere di ingegneria su massima scala, ma anche di un grave pericolo per l'ambiente circostante. Una volta che questi sbarramenti idroelettrici bloccano il libero corso di un fiume, come fanno le navi e i pesci ad aggirarle? Oggi il fiume Columbia è una via di navigazione essenziale. Scorre dalle montagne rocciose canadesi attraverso la Columbia britannica e gli stati di Washington e dell'Oregon. Tutto questo grazie alle dighe, con qualche accorgimento tecnico. Le dighe sul fiume Columbia nello stato di Washington, come la Rock Island e la Grand Coulee, non hanno chiuse e non consentono il passaggio di navi. Ma poco più a sud, 8 dighe dotate di chiuse trasformano il fiume Columbia e il suo affluente, lo Snake, in un'autostrada acquatica lunga 750 chilometri, dall'Oceano Pacifico agli Lewiston, in Idaho. Un rimorchiatore spinge 4 piatte, ciascuna delle dimensioni di un campo da football, verso la chiusa di navigazione della diga di Bonneville, sul fiume Columbia. Eretta in 5 anni, durante la Grande Depressione, la diga ha scavato in questa strettoia rocciosa, rendendo possibile la navigazione. La diga di Bonneville è una diga a gravità in calcestruzzo. Misura 55 metri di spessore alla base. Curtis Fish, operatore di chiusa della diga di Bonneville. Le due centrali elettriche sono lunghe circa 400 metri l'una. Stessa cosa per lo sfioratore. In tutto fanno più di 1,5 milioni di metri cubi di cemento. Generiamo poco più di 1,000 megawatt di elettricità. La diga più grande della zona, ovviamente, è la Grand Coulee. Loro producono 6 volte tanto. Terminata nel 1941, la Grand Coulee è la diga in cemento più grande degli Stati Uniti ed è un perfetto esempio delle dighe multifunzione sul fiume Columbia. È adoperata per l'energia, il controllo delle piene e l'irrigazione. Per quanto utili alla popolazione, le dighe sul Columbia danneggiano alcuni degli abitanti originali del fiume, i pesci e in particolare il salmone locale. I salmoni depongono le uova nel fiume, migrano verso l'oceano per crescere, poi risalgono il fiume per riprodursi. Le dighe rappresentano un ostacolo enorme per le migrazioni, in particolare per i piccoli che si dirigono al mare. David Morich, direttore associato di American Rivers. Mediamente, al passaggio in ogni diga, muore il 10-15% dei pesci. Potete ben capire che se sommiamo i vari passaggi, ne arrivano ben pochi all'oceano. Quindi si perde gran parte del banco iniziale. Nel tentativo di ridurre le perdite, il genio militare ha installato una serie di strutture a protezione dei pesci, inclusi diaframmi mobili. Glenn Venselon, Pacific Northwest Waterways Association. I diaframmi sottomarini sono strutture che calano nella porzione a monte della diga, si inclinano e sono dotati di motore. I pesci scendono, prendono la corrente e vengono guidati in una deviazione. Si tratta solo di un flusso d'acqua che passa attorno alla diga invece che attraverso, e così vengono dirottati a valle. Durante questo processo di deviazione, gli operai della diga riescono a raccoglierne circa metà, che viene caricata su delle chiatte e spedita direttamente all'oceano. Le chiatte riducono la mortalità vicino alle dighe, ma il trauma del viaggio è spesso causa di una morte successiva in mare aperto. Gli adulti che tornano a riprodursi possono aggirare la diga usando delle scale per pesci. Alice Outwater, autrice del libro Water Natural History. La scala per pesci è un percorso per aggirare la diga. I pesci si ammucchiano alla base in attesa di salire. Usano tutte le loro forze in questa fase. Poi hanno 50 o 60 chilometri di acqua piatta in cui nuotare. Perché il benessere dei pesci è diventato così importante? Glenn Venselon, Pacific Northwest Waterways Association. La ragione principale, ovviamente, è il decreto sulla specie in pericolo. Questo ha dato molto peso alla questione. E con i banchi in costante diminuzione, ogni pesce diventa importante. Le grandi dighe, comunque, non spariranno. Tutti concordano che l'energia idroelettrica è di gran lunga più pulita di quella di derivazione fossile. Ma se una diga cede, può spazzare via intere comunità. Chi controlla l'invecchiamento delle dighe? Le inondazioni sono causa naturale di morte e distruzione. Nelle zone a rischio, una delle qualità fondamentali di una diga è quella di saper contenere una piena. Ma in rari casi è la diga stessa a causare l'inondazione. Alle 10 di mattina del 5 giugno 1976, nell'Idaho meridionale, gli operai cercano disperatamente di chiudere una falla crescente nel versante a valle della diga di Teton. Ma il buco sconfigge le ruspe. Alle 11.57, la cresta di una diga a terrapieno alta quasi 100 metri crolla mentre il suo bacino viene riempito per la prima volta. Oltre 302 miliardi di litri d'acqua precipitano sulle comunità agricole sottostanti. 5 cittadine nel fondovalle, Rexburg, Sugar City, Wilford, Salem e Hibbard, vengono spazzate via. La muraglia d'acqua sradica le case dalle fondamenta. L'80% di Rexburg viene inondato e danneggiato. Sugar City, che sorge sul fiume, scompare virtualmente. L'inondazione uccide 11 persone e 16.000 capi di bestiame, oltre a causare danni per centinaia di milioni di dollari. Le perdite umane potevano essere peggiori se non ci fosse stato il tempo per l'evacuazione. La diga del Teton era un progetto del Bureau of Reclamation, una divisione del Ministero dell'Interno con oltre un secolo di vita. Il Dipartimento sovrintende ai progetti di sviluppo idrico negli Stati Uniti occidentali e ha costruito 600 dighe, incluse quella di Hoover e la Grand Coulee. Il crollo della Teton rappresenta l'unico fallimento tra le loro dighe maggiori. L'inchiesta seguita alla catastrofe ha evidenziato tre cause principali. Bruce Muller, responsabile sicurezza dighe del Bureau of Reclamation. C'erano fessure nelle fondazioni. Condizioni simili richiedevano una maggiore attenzione durante la fase di progetto. Il materiale del nucleo era problematico. Quello che si trovava in loco era sedimentario, molto erosivo, e andava protetto con cura. E il terzo fattore era l'assenza di misure difensive, che oggi adoperiamo regolarmente nelle dighe a terrapieno. In pratica, dei filtri che mantengono i materiali al loro posto. L'incidente della Teton ha fatto comprendere al governo federale che queste enormi infrastrutture necessitano di manutenzione. Non possono essere lasciate a se stesse. Occuparsi delle vecchie dighe occidentali è una missione primaria per gli ingegneri del Bureau of Reclamation, al lavoro nei laboratori di ricerca idrica di Denver, Colorado. In questo gigantesco stabilimento si studiano modi per ridurre il concorso di cause che portano al crollo di una diga. L'acqua è incredibilmente pesante. Un solo litro pesa circa un chilogrammo. Le dighe scaricano il peso dei bacini sulle fondazioni. L'acqua esercita una pressione di 83 tonnellate per metro quadrato sulla base di una diga delle dimensioni della Teton. Bisogna verificare le potenziali debolezze nella fondazione, che potrebbero favorire lo scivolamento a valle di un pezzo o di tutta la diga e svuotare il bacino. Magari si scoprono tempeste possibili che i progettisti originali non hanno considerato e potrebbero portare allo scavalcamento della diga e all'erosione del versante a valle. La tracimazione, acqua in eccesso che supera il ciglio della diga, è la causa più comune dei crolli. Gli sfioratori sono uno strumento essenziale per scaricare l'acqua al di là della diga, specialmente in caso di piene. Diciamo che lo sfioratore è un canale sicuro per trasportare l'acqua oltre la diga e riunirla al suo corso a valle. Il cedimento di una diga, anche se catastrofico, è un'occasione unica per imparare. Ancora Bruce Muller. L'incidente della diga Teton è stato terribile. Abbiamo imparato molto da quell'incidente. E come risultato ci siamo impegnati per condividere con altri le nostre conoscenze, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, per promuovere la sicurezza delle dighe. Possiamo imparare molto anche dai costruttori di dighe naturali per eccellenza. I loro sforzi proteggono alcuni tra gli habitat più vitali del pianeta. Le dighe dei castori possono arrecare grandi benefici al loro ambiente. Sotto molti aspetti, queste costruzioni rudimentali, erette per creare stagni al riparo dai predatori, sono ecologicamente superiori alle loro omologhe in cemento. Le dighe di castori hanno un impatto positivo quasi immediato sull'ecosistema locale. Le grandi dighe sommergono spesso gli habitat ricchi e vitali sul bordo dei fiumi. Le dighe dei castori hanno l'effetto contrario. A differenza delle grandi dighe, che spesso limitano i picchi stagionali e la portata d'acqua, le dighe dei castori non bloccano i flussi vitali per l'ecologia del fiume. Alcuni pesci di fiume, come il salmone, sono fonti di cibo vitali per gli esseri umani. E le condizioni idriche presso le dighe contribuiscono alla loro scomparsa. Oggi la popolazione di salmoni negli Stati Uniti è appena il 6% di quella di un tempo. Ma potrebbe esserci una soluzione tecnologica a questa ridotta ossigenazione dell'acqua. Richard Fisher, vicepresidente della Volt Siemens. Abbiamo sviluppato delle pale da turbina a cave. Le normali turbine sono grandi blocchi di acciaio molto solidi. Utilizzando queste pale cave possiamo formare una nube di bolle. L'ossigeno passa dalle bolle d'aria all'acqua e quindi aumenta il livello d'ossigeno nel fiume a valle della diga. E tutto questo va a vantaggio dei pesci. Dopo secoli passati a costruire dighe, in alcune zone degli Stati Uniti si pensa a rimuoverle, in particolare quelle più datate. Nel caso della diga delle Cascades, nel Parco Nazionale di Yosemite, la rimozione significa tornare da un ambiente protetto a uno stato più selvatico. Completata nel 1917, la diga Timber Crib è lunga 56 metri ed è composta da tronchi uniti a formare mangiatoie riempite di roccia. Rivestita di tavoli di legno e affiancata da due spalle in cemento lunghe 10 metri, questa diga primitiva poneva dei problemi ai suoi demolitori. Ciò che è costato $200,000 costruire è costato $2,800,000 demolire. Dopo tre anni di pianificazione, una squadra di 30 operai muniti di bulldozer ed escavatori ha rimosso la diga in appena due mesi, novembre e dicembre del 2003. Gli operai hanno deviato il fiume su un lato, tolto metà della diga, poi ripristinato il corso d'acqua e rimosso l'altra metà. Gli ingegneri hanno valutato il livello dei sedimenti, risultato molto basso. Così non c'è stata alcuna caduta a valle dei sedimenti, come si temeva. Gli operai hanno utilizzato i sedimenti in eccesso per riempire il buco in cui sorgeva la diga. Eliminata la struttura, la squadra ambientale si è messa al lavoro per ripristinare l'habitat naturale del fiume. Finalmente, dopo molti decenni, il fiume scorre libero. Questo stato naturale è più salutare per il fiume, ma l'acqua corrente è una risorsa sempre più preziosa per l'umanità. Di conseguenza, le dighe rimarranno salde al loro posto sulle nostre vie d'acqua. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda su History Channel l'11 gennaio alle 11.30. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi e Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.